Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Oggi posso dire al popolo americano e al mondo che gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare che ha ucciso Osama bin Laden. L'annuncio è storico, ovviamente, non ho bisogno di dirlo, ma è un annuncio che a partire da oggi avrà ramificazioni di ogni genere sul piano politico, su quello economico, a livello mondiale. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you, may God bless you, and may God bless the United States of America. Giustizia è dunque fatta, lo dice Barack Obama all'inizio della settimana, una settimana segnata dalla notizia del blitz, dell'esecuzione del principale terrorista internazionale compiuta appunto dalle forze speciali americane in Pakistan. Ancora un buongiorno a tutti da Gigi Donelli. Sono le 9:13 proprio in questo istante e come abbiamo sentito in questo breve estratto dell'appuntamento che ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13:45 abbiamo con America 24, con la voce di Mario Platero che ci racconta storie, fatti, protagonisti della vita americana. Dunque, come abbiamo sentito dalla tua sua voce, ovviamente il tema poi percorso di fatto l'intera settimana, le polemiche, le incertezze, le notizie poi, come dire, fornite con il contagocce sui dettagli dell'operazione. Ecco, tutto questo, ora che siamo alla fine della settimana, andiamo a ripercorrere tra qualche minuto alcuni dei passaggi principali, delle voci che vi vogliamo segnalare, ma intanto c'è una prima dichiarazione da parte del segretario della difesa degli Stati Uniti. Mi riferisco a Robert Gates, che ieri sera nel primo discorso pubblico dopo l'eliminazione appunto del leader di Al-Qaeda ha parlato alla base militare di Seymour Johnson nella Carolina del Nord. Gates ha detto la morte di Osama Bin Laden potrebbe avere effetti nella guerra degli Stati Uniti in Afghanistan. Questo è uno degli interrogativi di queste ore, più che di queste giornate. Secondo Gates, infatti, la morte del leader di Al-Qaeda potrebbe accrescere le tensioni tra gli insorti talebani, tra cui il Mullah Omar, e Al-Qaeda. Bin Laden e il Mullah Omar erano molto legati, ha detto, ma altri talebani si sono sentiti traditi da Al-Qaeda perché a causa dei suoi attacchi contro gli Stati Uniti, che proprio i talebani sono stati cacciati dal potere in Afghanistan. Ricordate 11 settembre, reazione immediata americana, fu la prima reazione, fu appunto l'attacco e il sovvertimento di fatto del regime talibano a Kabul. Così ha detto, ha spiegato Gates, sottolineando che, come è abbastanza ragionevole d'altra parte immaginare, ci vorranno almeno 6 mesi per capire se l'eliminazione di Bin Laden ha avuto effettivamente conseguenze dirette, misurabili, precisi sulla guerra americana e internazionale, visto che non dimentichiamo ci sono oltre 2000 soldati italiani presenti e di molte altre nazioni appunto sul territorio afghano. Punto e a capo. Terroristi avevano progettato, progettano e progetteranno attentati contro di noi comunque. Io credo che avere fatto cadere il simbolo del male sia stato un atto che indebolisce moltissimo il terrorismo internazionale e solo per questo noi dobbiamo essere soddisfatti. Un'operazione importante che non significa la fine del terrorismo internazionale, ma significa certamente che i terroristi non avranno più quel simbolo che avevano mitizzato a cui appellarsi, e credo non sia poco. Franco Frattini, ministro degli esteri, ospite di Alessandro Milano a inizio settimana, settimana che ha visto emergere anche delle polemiche sulla scelta, sull'azione di Washington, sull'esecuzione di questa vera e propria eliminazione, con alcuni aspetti poco chiari. Barack Obama, giovedì a Ground Zero, New York, naturalmente, per celebrare le vittime del terrorismo di Al-Qaeda, mentre nelle stesse ore il segretario di Stato americano Hillary Clinton era in visita a Roma. La Clinton ha ribadito che l'uccisione del più celebre capo del terrorismo jihadista non rappresenta certo la fine della lotta, ma di sicuro si tratta di un messaggio inequivocabile. A proposito del blitz in Pakistan, ha detto di ricordarli come i 38 minuti più intensi della sua vita. Il servizio di Vincenzo Miglietta. Nel giorno del presidente Obama a Ground Zero, le Nazioni Unite si aggiungono a quanti chiedono trasparenza e chiarezza sul blitz che ha portato all'uccisione di Bin Laden. Dal Palazzo di Vetro e l'Alto Commissario per i diritti umani ad invocare che la Casa Bianca fornisca un resoconto completo e preciso dei fatti. Le operazioni di antiterrorismo, viene spiegato, devono avvenire nel rispetto delle leggi internazionali che non autorizzano la tortura né le esecuzioni extragiudiziali. Sui delicati momenti che hanno portato alla morte del leader di Al-Qaeda parla intanto il segretario di Stato americano Hillary Clinton in visita a Roma. La battaglia contro il terrorismo non finisce con una morte, ma di certo l'uccisione di Bin Laden è stato un messaggio inequivocabile della ferma determinazione della comunità internazionale di opporsi al terrorismo, dice la Clinton, che difende il blitz militare, è stato condotto, spiega, con i massimi standard professionali. Quindi una confessione. Sono stati 38 minuti più intensi della mia vita. Infine la giornata nella capitale per il segretario di Stato USA, il gruppo di contatto sulla Libia, quindi i colloqui con Napolitano e Berlusconi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di voltare pagina vi faccio risentire anche un pezzo dell'intervista che Raffaella Calandra ha realizzato a Robert Fisk, l'inviato dell'Independent, che per ben tre volte ha incontrato Osama Bin Laden. L'ho incontrato tre volte, una in Sudan, due vicino ai suoi campi di addestramento in Afghanistan. La mia reazione personale quando ho saputo della sua morte è stata l'indifferenza. Non mi ha stupito neanche che fosse in una città. Lì è molto più facile vivere che non in campagna. Non ho mai pensato si nascondesse in montagna. Credevo fosse tipo in Waziristan o in una città pakistana. Com'è avvenuto? Lui, d'altra parte, so che più volte è stato anche a Karachi. Io non prendo così seriamente ciò che il governo pakistano dice. Alcune cose non sono vere. Conosco alcuni degli 007 pakistani impegnati nella caccia a Bin Laden e alcuni sono anti-americani, altri pro-Stati Uniti. Quanto a Bin Laden, era preparato ad essere anche ucciso, ma non ha mai parlato della sua successione. Forse al-Zawahiri, forse qualcun altro potrebbe essere il successore. Ma considerando la struttura di Al-Qaeda, ha un'importanza relativa, perché comunque non sarebbe responsabile delle singole azioni commesse. L'intervista integrale a Robert Fisk a partire dalle 13:15 nella rubrica Storiacce. Punto e a capo. Il FLI ha liberato dei posti nel governo che ci è parso assolutamente logico assegnare al gruppo che ha sostituito il FLI, che ha dato una nuova maggioranza al governo e che consente al nostro governo di poter operare in Parlamento con una maggioranza coesa, sicura, che ci consentirà anche di realizzare quelle riforme che la precedente maggioranza invece non ci consentiva di realizzare. L'infedeltà paga? In politica di sicuro non rappresenta un peso o un problema per le carriere. Roberta Pellegatta ce lo spiega mentre ci racconta il profilo dei nuovi arrivati. Katia Polidori e Daniela Melchiorre, la bionda e la bruna, sono insieme allo Sviluppo Economico. La prima, nota come fedelissima di Fini, confluisce ad agosto al FLI, ma in tre mesi cambia idea, votando a dicembre contro la sfiducia al governo Berlusconi. Altrettanto indecisa Daniela Melchiorre, ex deputato PDL, a dicembre firma una mozione di sfiducia nei confronti del governo Berlusconi, ma ad aprile ci ripensa e sulla vicenda del Rubygate vota a favore del Premier. Aveva detto: per Fini mi butterei nel fuoco, invece ha approdato su una poltrona

una vendita la spiaggia rimane pubblica. Disco verde anche alla riforma dell'apprendistato e al decreto sulle rinnovabili per la revisione degli incentivi al fotovoltaico, che di fatto ratifica l'intesa tra i ministri Prestigiacomo e Romani. Una straordinaria mediazione, per dirla con le parole di quest'ultimo. Tremonti poi annuncia che con l'autorizzazione della Banca d'Italia comincerà il percorso della Banca per il Mezzogiorno. Una struttura che può arrivare ad avere oltre 7.000 sportelli. Nasce un gigante. Sullo sfondo le ipotesi di una manovra correttiva di 7-8 miliardi entro l'estate, ma il ministro le liquida così. Non ne ho parlato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, invece sul capitolo lavoro del decreto. Le misure specifiche del lavoro, ricordo, oltre al citato credito d'imposta nel mezzogiorno, i contratti di inserimento per le donne nel mezzogiorno e la riforma in un testo unico dei contratti di apprendistato. Questo è un decreto legislativo in attuazione di una delega, va ora alla concertazione con le regioni e con le parti sociali, ma entro luglio diverrà operativo con il definitivo esame del Consiglio dei Ministri, in modo da essere strumento immediatamente fruibile. Punto e a capo. Rilancio dello sviluppo a costo zero. È la sfida dunque lanciata giovedì dal governo per trasformare in strumenti operativi i numeri e le linee guida tracciate a fine aprile con il documento di economia e finanza. Tra le direttrici, anzi tra le tre direttrici su cui si muove il primo dei provvedimenti urgenti del semestre europeo, ci sono la semplificazione, le opere pubbliche, il sostegno alle imprese che investono in ricerca, le assunzioni a sud e il turismo. Nonostante le speranze dello sviluppo economico nel decreto, non ha trovato posto invece il pacchetto liberalizzazioni per benzina, farmaci, assicurazioni. Commenti in estrema sintesi. Al momento, salvo che per il credito d'imposta per le imprese che assumono al sud, che se ben formulato sarebbe importante, non ci sono risposte su lavoro e crescita. Così il leader della CGIL, Susanna Camusso. Ancora, se questa era la frustata che si doveva dare all'economia, ben non c'è. Così il leader dell'UDC ed ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. Ancora, il pacchetto di norme che snellisce e semplifica i metodi di gara e alcune procedure in materia urbanistica è un segnale positivo. Si esprime invece in questo modo il presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Lance, Paolo Buzzetti. La Lega e Tremonti rilanciano l'economia. Questo è invece il titolo a caratteri cubitali ieri della Padania, che rivendica al Carroccio un ruolo primario nell'elaborazione del decreto appunto. Ancora qualcuno: nel decreto sviluppo ci sono tantissime cose che testimoniano uno sforzo da parte del governo di andare incontro alle esigenze delle imprese e della collettività. Così il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli. Ancora, il WWF invece, che tocca un altro aspetto del decreto e dice: il governo ha svenduto le spiagge ai privati per i prossimi 90 anni. Si accende un allarme per il pericolo di un'ulteriore cementificazione delle coste. E concludiamo con questo tema di fatto, perché interviene anche la Commissione europea, cosa abbastanza insolita, ma dice: sarebbe molto sorpresa perché il provvedimento non sarebbe conforme, quindi quello della liberazione della cessione e dell'affitto possibile per 90 anni delle spiagge, dice, il provvedimento non sarebbe conforme con le regole del mercato unico europeo. Così parla un portavoce della Commissione UE. Insomma, c'è stata una positiva fantasia creativa nel confezionare con il poco a disposizione il pacchetto sviluppo. Così scrive Alberto Orioli ieri nel fondo del Sole 24 Ore, un commento che precede ben 16 pagine di approfondimento dedicate appunto al tema. Uno speciale che, ve lo ricordo, ritrovate integralmente oggi, nei prossimi giorni, in formato digitale su il sole24ore.com. È uno spazio davvero ricco di informazione grafica, di tabelle, di sintesi, insomma una piattaforma che permette di affrontare nel dettaglio, seguendo anche gli interessi individuali, tutti gli aspetti presi in considerazione da questa iniziativa governativa.

manovra comunque non c'è, ha spiegato la Malmström, ma il vicepresidente della Commissione europea Tajani avverte. Purtroppo temo che quello che è successo fino ad oggi sia la punta di un iceberg. Noi rischiamo di avere, per come stanno evolvendo le cose anche in Libia, un incremento preoccupante dei flussi migratori dal nord dell'Africa verso il sud dell'Europa e segnatamente verso l'Italia. Bruxelles propone anche di destinare più risorse alla cooperazione con i paesi nordafricani, una nuova politica dei visti, un sistema europeo di asilo improntato alla solidarietà e un rafforzamento di Frontex, l'agenzia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rispettare Schengen, dunque, con realismo. Questa è un po' la nuova linea. L'Europa che ricompone le differenze. Il presidente della Commissione, il portoghese Barroso, indica questo approccio. Promette di finanziare l'emergenza attraverso i paesi membri più esposti. E naturalmente pensa all'Italia. Lo fa, non è banale dirlo, mentre è in Sicilia, a Palermo, dove ha chiuso la giornata di studio del Partito Popolare Europeo. Punto e a capo. Callisto Tanzi ha trascorso venerdì la sua prima notte in carcere, in una cella singola che gli è stata assegnata nel penitenziario di Parma. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a cui fa capo l'ufficio di sorveglianza di Reggio Emilio, da cui dipende il carcere, ha anche disposto un monitoraggio costante delle sue condizioni di salute. Intanto, nelle stesse ore, l'OPA dà oltre 3,3 miliardi di euro di Lactalis su Parma. La testata notificata mercoledì alla Commissione europea. Come appunto prevedono le leggi, ora i servizi del commissario UE alla concorrenza, Joaquín Almunia, hanno 25 giorni lavorativi di tempo per decidere se dare il via libera all'operazione o se invece chiedere un supplemento di inchiesta. Il verdetto è atteso entro il 14 giugno. Ora invece Marco Mussanè ci racconta da Parigi chi è Emmanuel Beignet, il gran patron di Lactalis. Emmanuel Beignet aveva 29 anni quando nel 2000 prese le redini del gruppo Lactalis dopo la morte improvvisa del padre, dal quale, oltre a quello che già allora era un gigante del latte, ha ereditato molte altre cose: il culto del lavoro, la scelta strategica dell'internazionalizzazione, il radicamento territoriale, la discrezione e la concretezza come regole di vita. L'importante è quello che si fa, non quello che si è. In 11 anni, decine di acquisizioni in giro per il mondo, ma nessuna intervista e una sola foto, scattata a sorpresa durante un incontro a Zagabria. I bilanci top secret. Occupa la 15ª posizione della classifica dei più ricchi di Francia. Eppure il giovedì pomeriggio sale come un passeggero qualsiasi sul TGV che da Parigi lo riporta a Laval, cittadina di 50.000 abitanti, del grande ovest agricolo, dove i Beignet continuano ad abitare. Un mondo in cui la sua riservatezza è un valore, apprezzato e protetto. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Punto e a capo. Per incidere sulle cause dei fenomeni criminalità, corruzione, evasione fiscale, occorre che la reazione della società civile avvenga al primo manifestarsi dei crimini, recuperando l'etica del mestiere di imprenditore. La legalità deve essere normalità dell'agire quotidiano. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio, appunto, del capoluogo siciliano su questo tema. Sentiamo il servizio. Laddove la mafia siciliana è nata, la mafia siciliana ha cominciato a morire. La provincia che sta vivendo questa favola, dove però non mancano le streghe cattive, è Caltanissetta. Cosa Nostra qui, da rurale, è diventata imprenditrice. Cosa Nostra qui vede sretolarsi, una dopo l'altra, le certezze che aveva accumulato nei secoli: la connivenza della politica, la paura della gente e la mano tesa dell'imprenditoria che agisce fuori dalle regole del libero mercato e vive di finanza pubblica. Che Caltanissetta non sia più un fenomeno passeggero nella geografia della rivalsa economica e sociale lo si è capito bene ieri nel corso del convegno organizzato dalla Camera di Commercio. Il titolo della giornata era da brividi: criminalità, corruzione e evasione fiscale, ingredienti perfetti per una miscela esplosiva che gli imprenditori e i commercianti con le loro denunce, il sindacato illuminato con il sostegno alle aziende, la magistratura e le forze dell'ordine con le loro azioni e la Chiesa con le sue prediche di vita contro la cultura mafiosa sono riusciti in buona parte a disinnescare. Ma per fare di più mancano due ingredienti indispensabili, la politica e lo Stato. La prima è ancora timida e forse stretta mani e piedi a legami inconfessabili. Il secondo è ancora confuso nel sostegno da dare. Roberto Calullo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Caltanissetta. Punto e a capo. Lo chiamano Tatanka, il bisonte per gli indiani d'America, perché è uno di quei pugili che va avanti a testa bassa. È il protagonista del film di Giuseppe Gagliardi, ispirato a un racconto di Roberto Saviano. A interpretare il film, il pugile Clemente Russo, intanto sospeso dalla polizia, forse per una scena molto forte in cui un piccolo delinquente viene torturato dalle forze dell'ordine fino al soffocamento. Il regista al microfono di Marta Cagnola. La suggestione è quella lì di raccontare un universo che è quello delle palestre di Marcianise, di questo luogo sperduto che però ha già regalato 3 campioni del mondo al pugilato internazionale, dove i ragazzini, grazie a questa grande scuola di vita che è rappresentata da questi maestri di box, riescono ad avere un'alternativa, una reale alternativa alle cattive strade. È una storia molto rappresentativa del Sud. È la storia di come, se vogliamo, il talento al Sud in genere viene oppresso, come è incredibile come se hai un talento al Sud spesso, quasi sempre, significa molto poco. Puoi avere qualsiasi tipo di talento e non viene mai valorizzato. Il fatto che poi alla fine Clemente abbia anche dovuto subire un provvedimento per alcune cose, lui ha spiegato anche perché c'erano alcune cose molto dure e crude nella sceneggiatura. Certo, noi abbiamo voluto rappresentare un po' cos'è il Sud, no? E quindi abbiamo raccontato anche delle cose spiacevoli che al Sud purtroppo possono avvenire da entrambi i lati, no? Ci sono, come dire, questo episodio in particolare legato a questa scena incriminata, tra virgolette, perché è un altro episodio tratto dalla realtà da cui abbiamo preso spunto per raccontare come spesso ci possono essere mele marce sia da una parte che dall'altra. Quindi volevamo dare uno spaccato realistico dei luoghi che raccontavamo. Professione, finora giornalista. Cantante, finora per passione. Ma oggi esce il suo primo CD. Chi fa da sé, fa per tre. È il barese Fabio Milella che, anche se è nato nel 78, si ispira agli anni 60. No, non li ho incrociati, però li ho ascoltati, si fanno ascoltare sempre gli anni 60. Io sono innamorato perdutamente della grinta, dell'energia, della forza di quella donna che si chiama Rita Pavone, che, voglio dire, negli anni 60 portava in giro i suoi brani, dal Jegge Jegge Jegge a Datemi un martello e tutto il resto, e così tutti gli altri brani, insomma, che sono stati prodotti in quegli anni. C'era una grande voglia di rivincita, c'era una voglia di star bene, c'era la voglia di ridere, di sorridere. A me piace l'idea di poter trasmettere la stessa spensieratezza. Ovviamente non ho la pretesa di esserci riuscito, questo poi lo vedremo, lo capiremo, però mi piaceva l'idea di portarla nei miei brani, e questa è una cosa magnifica. Cioè, gli anni 60 sono stati proprio, secondo me, la culla della musica, anche moderna, se vogliamo. Era fantastico, con pochi giri di accordi. Tu pensi a Sapore di Sale, con un giro di accordi, di pochi accordi, cioè riuscivi a fare una canzone che ha fatto sognare e fa sognare tuttora. Forse prima si dava più tempo anche alle persone per dimostrare il valore che hanno. Esatto. Oggi, però, hai detto proprio la cosa giusta. Oggi deve essere consumato tutto velocemente. È come la fotocamera digitale. C'era il gusto di fare le foto, c'era il gusto di svilupparle, c'era il gusto di guardarle. Sai, quando tu vivi in una società in cui tutto quanto è così veloce, è inevitabile che tu fai migliaia di foto, le metti sul computer e non ne guardi più neanche una. Punto e a capo. Per lo spagnolo Alberto Contador il favorito è Nibali. E Alberto Contador in questo modo, diciamo, spiazza tutti, scommette sul successo del corridore siciliano della Liquigas, forse pretattica, chissà, vedremo. Ivan Basso invece punta tutto sul Tour, il Tour de France, ma per quanto riguarda il Giro scommette invece sul suo compagno di squadra, Nibali appunto. Ivan Basso è stato nostro ospite, allora sentiamo cosa pensa di questo Giro, cosa pensa del suo futuro immediato e le ragioni della scelta che lo portano, almeno per quanto riguarda l'attività agonistica, direttamente sulle strade francesi. Il Giro mi manca, questo è normale, è la corsa dei sogni che avevo da bambino e fortunatamente sono riuscito a vincerla due volte. E quest'anno, per una serie di motivazioni che ho condiviso con la mia squadra, abbiamo deciso di investire tutte le energie sul Tour, proprio perché abbiamo un altro ragazzo in squadra che è Nibali, che può fare molto bene in questo Giro d'Italia, e soprattutto anche la condizione che ho avuto nell'ultimo periodo non era ottimale per poter affrontare un Giro d'Italia da protagonista. Ci siamo detti dall'inverno che avevamo la responsabilità di dare alla nostra squadra i risultati nelle grandi corse a tappe, ed è proprio per questo che alla fine siamo arrivati a prendere questa decisione, che bisognava dividerci i compiti, e così è stato. Io ho vinto due giri d'Italia e per due volte sono arrivato sul podio del Tour, e credo che è doveroso che io provo a realizzare questo sogno, cioè quello di provare a vincerlo. È un percorso bellissimo, un percorso con tanta salita, vincerà il corridore più forte, con un tracciato con 6 arrivi in salita, 7 arrivi in salita, è indubbiamente un giro esigente che giorno dopo giorno non si deciderà chi lo vince, ma a mio parere queste 7 tappe di montagna ogni giorno toglieranno dei pretendenti alla maglia rosa. Vi ricordo solamente i nostri speciali alle 13, alle 19, alle 7 del mattino per tutta la durata del Giro d'Italia, oltre naturalmente ai consueti appuntamenti con A Tempo di Sport. Ci siamo e siamo in chiusura. Vi voglio solo ricordare tra pochissimo l'appuntamento con l'Altra Europa, questa mattina in diretta da Firenze, dove si apre il primo Festival dell'Europa. Il nostro Federico Taddia dunque vi aspetta per raccontarvi tutte le novità e anche ovviamente tutti gli sviluppi dei grandi temi che proprio l'attualità in questi giorni solleva. Per quanto mi riguarda non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia, salutarvi, darvi appuntamento con Punto a Capo naturalmente alla prossima settimana. Un saluto.